Lunedì 13 novembre alle ore 18 e presso la biblioteca Amilcar Cabral viene organizzata la presentazione di Un Dio Nero e un Diavolo Bianco, libro di Luca Peretti edito da Marsilio in questo 2023. Per l'occasione ci sarà la presenza dell'autore, storico del cinema e delle culture italiane e membro di Storia in Movimento, l'associazione che cura la rivista Zapruder. A discutere con lui la redazione di Vallun di Radio Città Fugico, www.radiovallun.info, sito su cui potete trovare una puntata dedicata proprio al dialogo con Luca Peretti e sul suo lavoro. Buongiorno Luca. Buongiorno a voi. Il sottotitolo del tuo libro, Un Dio Nero e un Diavolo Bianco, è Storia di un film non fatto tra Algeria, Eni e Sartre. Che cosa vuol dire un film non fatto e che cosa troveranno i lettori e le lettrici? Un film che non è mai diventato film, rimane quindi soltanto un progetto, rimane sulla carta, rimane una sceneggiatura e una serie di altri materiali come il soggetto, il trattamento, ma anche in questo caso la scaletta per andare a girare, insomma tutta una serie di materiali di quella che si chiama preproduzione. Rimane sulla carta per tanti motivi che ipotizzo nel libro, ma la cosa interessante non è tanto il lato negativo, cioè il fatto che non si è fatto, ma quali sono le forze, quali sono le entità che hanno resa possibile anche soltanto il tentativo di farla, tra le quali appunto, come dice in sottotitolo, c'è l'ENI che forse doveva finanziare questo film, e poi c'è Sartre che ha scritto la linea narrativa, poi c'è Franco Solinas che invece ha contribuito alla scrittura della sceneggiatura. E il film, questo non l'abbiamo ancora detto, si occupa appunto della guerra di indipendenza in Algeria che si combatteva in quegli anni e in maniera che usa, con questa guerra viene usata in maniera paradigmatica, diciamo così, per raccontare le lotte anticoloniali che si stavano svolgendo in quegli anni in diversi paesi del mondo. Un aspetto fondamentale del tuo libro è quello delle relazioni tra Italia e Algeria negli anni del processo di indipendenza dalla Francia e poi negli anni della costruzione della Repubblica Algerina. Quali sono state le relazioni tra i due paesi che questo film non fatto può raccontare? Dunque, a parte la Francia, per ovvie ragioni, l'Italia è senza dubbio il paese in Europa e forse nel mondo dove l'impatto di questa guerra di indipendenza è maggiore. Se ne parla molto, se ne parla sui giornali. C'è una intensa solidarietà quando per la prima volta nel 1957 un inviato di Vie Nuove va ad Algeri, si sente dire so che abbiamo degli amici in Italia, perché c'è un legame e un interesse molto, molto forti che arriverà fino all'indipendenza e dopo, tanto che ancora oggi appunto come sappiamo ci sono dei legami intensi. Nel 1966 si fa la battaglia di Algeri, esce la battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, che però in un certo senso è soltanto il punto di arrivo di una serie di scambi e di interazioni che riguardano la cultura e anche la politica che si svolgono tra le due sponde del Mediterraneo, un Mediterraneo non diviso come oggi, non con una frontiera invisibile, ma anzi con appunto scambi e interazioni costanti, e quindi appunto il libro mostra come non dobbiamo più pensare alla battaglia di Algeri come un po' un unicum, ma parte, punto di arrivo in un certo senso, di una serie di rapporti di cui questo film fatto, questo progetto, Un Dio Nero e un Diavolo Bianco, è senz'altro l'episodio più importante, ecco.